Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Brunello Cucinelli, 60 anni, perugino, sposato con due figlie, diplomato geometra, frequenta il biennio di ingegneria, ma poi si mette al lavoro, fonda la sua azienda che oggi ha 1000 dipendenti e circa 3500 collaboratori esterni per un fatturato di più di 300 milioni di euro. Vive in un castello a Solomeo, un borgo vicino a Perugia, ama il calcio e la mattina fa i 5 tibetani che lo aiutano fisicamente e psicologicamente. In azienda comanda, nessuno lo contraddice, ma i dipendenti riconoscono in lui il leader. Ama l'umanità del bar di provincia dove fino a tardi, dice, si discute di filosofia, di donne, di poesia, di matematica e di politica. Allora, signor Cucinelli, il suo più che un bar sembra un'accademia del lincee. Esiste ancora questo luogo mitico? Grazie, buongiorno. Sì, io volevo in questo luogo, avendo costruito un teatro, un'accademia, volevo che fosse appunto un luogo di incontri dove si discute di tutto, come è stato al bar. Ecco, ma al bar si impara la vita, no? Assolutamente sì, è la mia università. E chi vince al bar vince anche in azienda? Questo non lo so, ma il bar è molto importante. Lei lavora con lo spirito di un monastero benedettino, dice di sé e del suo luogo di lavoro. Come mai questo fascino dei benedettini su di lei? C'è qualcosa di molto interessante quando San Benedetto dice: cerca di essere rigoroso e dolce, esigente maestro, amabile padre, e poi raccomanda ogni giorno di curare la mente con lo studio, l'anima con la preghiera e il lavoro. Accidenti, se riusciamo a farlo è fatta. Senta, il suo ideale quindi in qualche modo è un benedettino da bar, diciamo. Il mio sogno sarebbe stato sempre un monaco part-time, ma non si può. Senta, un giorno però ha avuto l'idea vincente, forse per questo non l'ha potuto fare. Ricorda quando e dove? Sì, a 25 anni ho avuto questa idea di far Kashmir colorato. Ecco, ma la molla è stata fare soldi col bello, con le cose belle? No, ma ho sempre... Colore è una cosa bella. Senza dubbio, ma ho sempre immaginato che tutto ciò che è bello è vero e forse anche giusto. Ecco, ma chi l'ha aiutata a realizzare questa fantastica iniziativa? I miei collaboratori di sempre, i miei amici del no, bar. Ma all'inizio c'è stato qualcuno che le ha dato una molla in più? Ma no, sono stato da solo, i primi anni vivevo e lavoravo da solo. Senta, lei oggi è il re del Kashmir di altissima qualità, soprattutto per le donne. Ecco, perché proprio il Kashmir? Perché volevo fare qualche cosa di grande qualità, in quanto Theodor Levitt diceva che noi, paesi sviluppati, avremmo dovuto produrre prodotti molto speciali. Che è un grande maestro del marketing, no? Sì, uno dei grandi maestri del marketing. Ma perché per donna? Perché a quel dì il cashmere era principalmente classico per uomo e io volevo farlo per donna colorato, ispirandomi ai colori meravigliosi di Benetton. Infatti Benetton poi... Anche lui più o meno ha fatto una cosa simile su una fascia, anzi al contrario, no, bassa. È stato lui prima ad ispirarlo. No, fare i colori, certo. Chiaro. Senta, e qual è il cashmere migliore? È il cashmere migliore che viene dalla Cina e dalla Mongolia e deve essere pulito, lungo e molto molto fine. Ma come si lavora questo cashmere? Delicato? È molto delicato, molto speciale e molto difficile da lavorare, quindi voi trovate cashmere a prezzo altissimo e a prezzo basso e dovete fidarvi solo del brand. Ah, solo del brand? È la garanzia vera. È una lavorazione complicata? Abbastanza complicata. Lei dice solo l'eccellenza ci può far conquistare il mondo, è l'unica strada? Io credo che questo nuovo mondo sia affascinato dai manufatti italiani di altissima qualità e questo vale per la nostra splendida Europa. E quindi per la nostra Italia. E noi in Italia, essendo secondi solo la Germania, abbiamo manufatti di grande qualità. Di grande qualità. Nella sua vita è stata sempre così, l'eccellenza come obiettivo? Ho sempre pensato di fare qualche cosa di speciale, anche quando al bar giocavo a carte. Cercavo di contare il 48, cosiddetto. Vincevo o perdevo al bar? cercavo di giocare con persone che fossero meno brave di me. Ah sì? Ma chi vince al bar vince nella vita. Ma questo non lo so, come le dicevo, ma il bar è una grande scuola di vita, dove hai l'imprenditore e lo studente, in questo caso... Interclassista, diciamo. Ecco. Sì. Senta, la sua biografia è piena di citazioni letterarie e di personaggi storici di riferimento. Da Kant, Alessandro Magno, da Barack Obama... Martin Luther King e tanti altri sono i suoi punti di riferimento, no? Ma io ho sempre immaginato che questi grandi esseri umani della vita in qualche maniera spiritualmente fossero miei coetanei. Ah sì, e quindi sì. Per questo li pensa presenti nella sua vita continuamente. Bravissima. Ma chi di più? Se dovessi scegliere qualcuno veramente prenderei l'imperatore Marco Aurelio, perché gestisce l'impero pensando da filosofo e agendo da imperatore. Beh, accidenti, una bella sintesi. Beh, onestamente metterei vicino anche il grande Adriano, che per me è stato un uomo che mi ha cambiato la vita. Addirittura? Sì, perché lui è qualcosa... Innanzitutto si esprime dicendo: mi sento responsabile delle bellezze del mondo, e quindi qui entra il concetto della custodia. La custodia come responsabilità proprio. Ma sì. Se ti senti custode, probabilmente tutto diventa quasi eterno. Restauri da custode e vivi da custode, immaginando che al di là, dopo la morte, tu possa portare solo le conoscenze. Senta, lei alla Leopolda, a proposito di questo che sta dicendo, ha fatto un discorso sul nuovo rinascimento. Ecco, perché proprio la Leopolda? È una scelta politica? No, perché immaginavo che intorno al 1500 tornano i mercanti dall'America e portano pomodoro, mais e patate e cambiano l'umanità, l'Europa. Questo trovo che sia un momento uguale, simile. Cioè, Renzi cambierà la vita? Non ho detto che Renzi cambierà la vita, ma guardi, io credo che ci sia un nuovo seme politico che è nato, e quindi uniamo politica, ideale e famiglia. Senta, il suo leader per il futuro allora, Renzi, potrebbe? Questo non lo so, ma guardi, io credo che vi siano uomini come il nostro premier Renzi, Civati, Tosi, Alfano. Questi per me rappresentano, insomma, c'è una nuova politica che le dà speranza, diciamo. Bravissimo. Ecco. Senta, oggi il mondo è dominato da un turbo capitalismo finanziario, però speculativo, durissimo, che ha creato certo miti non rinascimentali che si esprimono così. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Che affetto le fa? Parole un po' diverse dalle sue. È l'opposto di quello che penso io. Ma io credo... sono quelli vincenti adesso? No, assolutamente no. Io credo che ci sia una forma di nuovo capitalismo che io voglio chiamare contemporaneo e umanistico, dove l'essere umano è al centro. Senta, lei infatti dice che vuole un profitto con etica e morale. Ecco, qual è l'etica del suo profitto? Aristotele considera l'etica la parte superiore della filosofia. Noi dobbiamo lavorare senza creare danni all'umanità, o perlomeno crearne meno possibile, producendo un sano profitto. Senta, ma la tentazione per gli imprenditori però di mettersi a fare sempre di più finanza, come abbiamo sentito, è una realtà, cioè? No, il mio mestiere è industriale. Se mi chiamassero industriale artigiano sarei ancora più contento. Quindi non c'è questa tentazione di andare verso la finanza che uccide l'industria? Sono mestieri totalmente diversi. Però è un trend, si può tornare indietro? Assolutamente sì, i grandi ideali dell'essere umano sono gli stessi da quando è nato il mondo. Senta, lei però un pochino ha ceduto perché è andato in borsa. Perché? Io sono nato in borsa perché immagino che questa impresa possa vivere un secolo, che l'impresa fosse ancora più aperta e poter ascoltare coloro, soci, investitori che non la pensano sempre come me. E quindi non è una, come dire, una tentazione finanziaria, è un progetto per il dopo. Ho sempre pensato che l'impresa non si erediti e quindi le mie figlie un giorno potrebbero essere proprietarie, ma essere l'impresa gestita da qualcuno. Certo, e quindi diciamo il problema delle aziende familiari, che spesso hanno questo problema di passaggio di generazione, lei pensa di tamponarle in qualche modo andando in borsa. Quando sia successo non sempre ascoltiamo, e questo per me è un grande problema. Un modo di essere costretto ad ascoltare. Ecco, Armani non vuole ascoltare che in borsa non ci è andato mai. Un po' di invidia, la prova o no? Lui è il nostro grande maestro della moda, quindi altro non potrei dire. Vabbè, quindi insomma. Io però le dico che sono veramente particolarmente contento di essere andato in borsa. Vabbè, sì. Un'altra esperienza. E posso dire anche che veramente il rapporto tra investitori e industria è molto serio. È molto serio. Senta, un settore di super lusso come il suo è fondato in gran parte sulla serializzazione di prodotti artigianali di alta qualità. Ecco, come si impara? Come si mettono insieme queste due cose? Io credo in un prodotto di grande artigianalità, qualità e creatività, e questo si può avere solo investendo nell'essere umano. Senta, ma lei sa farlo un golf di cashmere? Tutto insieme no, però direi una parte sì. A che parte? Perché si fa a pezzi? Eh beh, sì, come un pullover, come una giacca si costruisce a pezzi. Ah, ecco. E lei che parte sa fare? Abbastanza poco, stirare la parte finita. Senta, gli artigiani, ne abbiamo parlato, non sono impiegati ma sono imprenditori. È difficile organizzarli in impresa? Assolutamente no, però il fondo dell'artigiano è costruire qualche cosa di molto speciale, di costruire un manufatto speciale. Esatto. Per l'artigiano il conto economico è la seconda parte del lavoro. Ecco, ma qual è il segreto nel trasformare un artigiano in qualcuno che produce anche qualcosa che sta in piedi economicamente? È la estrema collaborazione, l'estrema stima. Vede, se lei dà stima a qualcuno, quella stima diventa responsabilità e la responsabilità diventa creatività. Senta, so che lei ha organizzato anche una scuola di formazione, perché qui stiamo nell'eccellenza assoluta. Come si entra nella sua scuola? Abbastanza facilmente. Noi prima avevamo delle scuole di arte, adesso abbiamo cercato di creare delle scuole di mestieri per farle vivere insieme. Ma lavorano meglio gli uomini o le donne nel suo settore? Noi abbiamo 70% di donne, credo che le donne si affezionino leggermente di più al lavoro. Al prodotto proprio? Al lavoro, all'impresa. Ah, però anche al singolo prodotto che producono? Ma questo anche l'uomo, direi alla stessa all'impresa maniera. All'impresa proprio, sì. Lei dice l'impresa. Ecco, lei crede che il futuro dell'industria manifatturiera italiana sia solo nei prodotti di alta gamma del lusso? Questo noi stiamo organizzando l'umanità e credo che questa umanità abbia bisogno di manufatti italiani, europei molto speciali. Ecco perché credo che avremo un futuro migliore. Sì. Ecco, ma in un momento di crisi economica come questo, per un umanista come lei, lo stiamo sentendo, produrre cashmere di super qualità non è produrre il massimo del superfluo? No, assolutamente no. È il modo come lo produciamo. Noi vogliamo produrli rispettando l'uomo e la sua dignità. Ma la vede l'uscita dalla crisi, lei? Io credo che noi non siamo più in crisi. Sia germogliato il rinnovamento morale, civile e umano della nostra civiltà e politico. Sì, però intanto moltissime aziende falliscono, il lavoro manca, questo è un dato di fatto, soprattutto per i giovani. Ho letto che lei ha detto il governo aiuti le aziende a evitare il fallimento, ma deve farlo il governo? No, io intendevo dire che il governo dovrebbe togliere la parola fallimento se non vi è dolo, perché il mondo è in trasformazione e certi manufatti di medio livello non sono più di nostra competenza. E quindi le aziende che lo producono devono fallire. Dobbiamo chiedere aiuto ai nostri collaboratori cercando di far sì che questi prodotti si elevino per diventare. Cioè bisogna speciali. Trasformare l'oggetto della produzione. Bravissimo. Ecco. Senta, ma questo governo con questa legge di stabilità ha imboccato la strada giusta o siamo sempre solo le buone intenzioni? Mi sembra che stiamo andando verso la strada giusta, anche se non è mio compito giudicare. No, vabbè, però vede e quindi. Ma io ha voglio un'opinione. Vivere, lavorare nel mio governo, nel mio Stato, nel rispetto delle mie istituzioni. Senta, ma questa Europa guida tedesca innescherà lo sviluppo oppure l'euro chiamato Marco non ci aiuta? Io credo che l'Europa abbia un grande valore e un futuro perché questi giovani mercati Cina, India, Sud America sono affascinati da noi. Sì, però lei è presente su 60 mercati mondiali più o meno, forse di più. Questo euro qua che abbiamo adesso aiuta o limita la sua espansione? Ma io credo che sia solido e aiuta. L'aiuta. Senta, le sue aziende sono paragonate alla Olivetti di Adriano Olivetti, che era un imprenditore, un mecenate, un politico, un sognatore. È lusingato di questo confronto? Questo mi fa onore, ma io ho conosciuto Olivetti da grande. In realtà io mi sono ispirato agli occhi lucidi di mio padre quando veniva offeso, umiliato, è il motivo per cui ho cercato di creare un'impresa dove la dignità dell'uomo fosse al primo posto. Perché suo padre che cosa faceva? Noi facevamo i contadini, non mai visto i miei genitori litigare. Quando lui è andato a lavorare in fabbrica veniva offeso, umiliato, faceva prefabbricati in cemento armato, e questo mi dava molto male. Ecco, il fatto che non abbiano mai litigato è stato un modello per lei? Ma io direi di sì. L'ho sempre e lei visto. Non litiga mai con sua moglie? Onestamente siamo 43 anni che stiamo insieme, devo dire no. Mai litigato? Ah, complimenti, una medaglia d'oro al valor civile. Ma dobbiamo avere grande rispetto. Senta, ho letto che a Harvard studiano le sue imprese come un caso di scuola, perché? Questo non lo so, ma io credo che ho cercato di portare in impresa i grandi valori dell'essere umano, il rispetto, la dignità economica e morale del lavoro, specialmente artigiano, che è pagato come voi sapete. Ecco, ma quali qualità è necessario avere più di altre per gestire in questo modo questo tipo di impresa? Io credo che noi abbiamo bisogno di tornare ad essere credibili. Per essere credibili dobbiamo essere veri, e questo vale in politica, nel giornalismo, nella famiglia e nell'impresa. E quindi per comandare ed essere creduti bisogna essere veri? Assolutamente sì. E lei quando ha capito che era, chi era vero? Questo non lo so, Alessandro Magno beve la stessa quantità di acqua dei suoi soldati. Ma lei guadagnerà un po' di più però. Sì, ma non è questo che cambia. Vivo in un piccolo paese. Quello che io volevo un'azienda solida, sana, che lavorasse per la dignità dell'uomo. Ma c'è un dialogo continuo, mi pare di capire, con i suoi dipendenti? Facciamo un'assemblea ogni 2 mesi. Non si può dire che è dialogo perché parlo solo io, ma in realtà cerchiamo di affrontare i temi di come vivere e lavorare insieme, perché è importantissimo. L'impresa deve donare una parte dei suoi profitti a benessere dell'umanità. E quindi lei ascolta gli investitori, ma non i suoi collaboratori, non i suoi operai? Ma le devo dire, abbiamo un'età media di 35 anni, mi sembra che si respiri una bella atmosfera, un grandissimo senso di responsabilità che genera creatività. Ma i sindacati sono con lei? No, non abbiamo sindacati, ma io sono apertissimo. In Dio ci crede, eh? Io sono un grande amante della spiritualità. Ho deciso un annetto fa che l'anima, secondo me, è immortale, e questa è una decisione dove non torno indietro. E quindi ci crede? Io ci credo, e poi, come dice il mio stimato Socrate, se così non fosse ho vissuto meglio. Senta, lei ha anche una piccola squadra di calcio, perché è una grande passione, eh? Una grande passione, ma era un piccolo dono che volevo fare al mio paese dove sono nato, perché il campo è proprio sito a 1 chilometro da dove io facevo il contadino e dove ho vissuto. Ah beh, quindi c'è una nemesi storica. Ecco, dicono che lei vuol rendere attuale il significato di dilettantismo nello sport, è vero? Io vorrei provare a miscelare dilettantismo e professionismo, giocando in un campo, appunto, che è uno stadio senza barriere. Senta, ma quindi se la sua squadra vince o perde, per lei è uguale? Fa lo stesso, certo mi dispiace, ma i premi li ho solo dati quando siamo stati sconfitti. Cioè, conviene perdere giocando con lei, così si no, guadagna, ma veda, di più. Un uomo che perde ha qualcosa di più. E è in quel momento che, se tu fai un piccolo dono, forse hai fatto qualcosa di molto speciale. Adriano, un nostro grande maestro, tra l'altro mi dice lei, anche il suo, dice: non ho mai conosciuto qualcuno che dopo un complimento non si sia sentito migliore. Senta, sembra che il suo stadio, per stare al calcio, sia una bomboniera perfetta. Insomma, solo lei e la Juventus avete uno stadio nuovo. Come mai? No, questo non lo so, ma il nostro è un piccolissimo stadio, siamo 400 persone al paesino, non è paragonabile con la Juventus, però è un piccolo dono di abbellimento all'umanità. All'umanità locale. Ecco, ma è normale secondo lei, se ci ha riflettuto, che anche questa volta l'emendamento sugli impianti sportivi non è passato ed è stato bocciato? Ma è un momento molto particolare per la nostra Italia, e questo non sta a me giudicare, sono loro che devono fare il loro lavoro. Però aiuterebbe contro i tifosi violenti avere degli stadi, come dice lei, senza barriere? Io ho provato e siamo la prima squadra italiana che gioca senza barriere. E non sta succedendo niente, il risultato buono, è no? Molto molto speciale. Senta, ma per un giovane oggi, secondo lei, è meglio lavorare o studiare? Io credo che debba fare tutte e due le cose. Io credo che lo studio fino ai 18 anni di noi italiani sia particolarmente speciale, perché abbiamo sposato scienza ed intelletto e anima insieme. Dopo potremmo migliorarci, ma io credo che si debbano fare tutte e due Quindi, le cose. Lavorare e studiare. Sì. Scuola-lavoro. Sì. Senta, le faccio un'ultima domanda. A leggere quello che lei ha scritto, le sue interviste, e anche a sentirla stamattina, sembra una persona, mi permetta, una persona perfetta. Ma la perfezione ogni tanto non l'annoia un pochino? Assolutamente no, io volevo solo ricordare questo genio dell'umanità che è Papa Francesco, il quale ci ricorda di non giudicare, di essere custodi e di non interferire nella specifica coscienza di ogni essere umano. Grazie. Grazie. Ricordo a tutti, sono le 9:31:56, 800-24-00-24 per chi vuole telefonare, 349-238-6666, il numero del nostro SMS pubblicità. Mix 24. L'ho incontrata domani, o perlomeno mi è sembrato così, era troppa fuligine. Ora non ricordo più, t'ho incontrata domani, che ripartivi via da dove non si sa, ma mai schivato nel traffico. Pietrangelo, eccomi. Allora, buongiorno. Oggi cominciamo oggi con Sergio Caputo, t'ho incontrata domani. Mario, dimmi. Un gigante, un grande, un poeta, la musica e soprattutto le vibrazioni, qualcosa che possa riportarci a domani. Perché gli incontri migliori sono quelli che abbiamo alle spalle, dove c'è il futuro. Insomma, la grande confusione cosmica è nelle storie d'amore che si snoccioleranno. E che titolo faresti all'intervista del grande Cucinelli? Kashmir per tutti? Com'è? Kashmir mi ricorda i ceti medi riflessivi, mi ricorda le babbuccette, mi ricorda quell'atmosfera di grande pensamento. E siccome tu sei uno che la storia la conosce, basta Kashmir, meglio l'orbace. Mario, io la farei così. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa. Ha parlato solo del bar. C'è anche il contorzio agrario da rivalutare. Importantissimo. Ecco, prima delle tue bolle, però, oggi faccio anch'io una bolla. I notai italiani lanciano uno stimolo a una politica un po' distratta rispetto al tema delle coppie conviventi. Hanno organizzato per domani, 30 novembre, un Open Day contratti di convivenza, appunto. Domenico Cambareri, consigliere nazionale del notariato, di che cosa si tratta? Buongiorno intanto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. È un'iniziativa questa del notariato, come ha detto. Sì, direi di cosa si tratta? Sì, allora, domani 30 novembre tutti i consigli notarie d'Italia apriranno le porte alla cittadinanza. Sul sito internet www.contrattidiconvivenza.it si troveranno gli indirizzi dove incontrare i notari. Ecco, ma per fare cosa? Qual è l'obiettivo? A cosa servono i contratti di convivenza? Allora, l'obiettivo è innanzitutto dimostrare che tutti i notai sono vicini ai cittadini, quindi dimostrare la sensibilità sociale che i notai hanno e offrire quindi un aiuto concreto a tutti coloro che decidono per le più svariate ragioni di convivere senza sposarsi. Le leggi italiane consentono, anche in assenza di una regolamentazione sulle coppie di fatto, di utilizzare il classico contratto per far fronte ad alcune esigenze dei conviventi. Ecco, ma chi può fare questi contratti di convivenza? Cioè, quali diritti restano scoperti? Allora, innanzitutto restano scoperti quegli ambiti strettamente personali. Non è possibile regolamentare rapporti come il dovere di fedeltà, il dovere di coabitazione o alcuni particolarissimi aspetti patrimoniali come la pensione di reversibilità a favore del convivente o l'acquisto di diritti ereditari. Queste cose non è possibile regolamentarle perché richiederebbero un... E allora che cosa regolamentate esattamente con i contratti di convivenza? Con i contratti di convivenza è possibile regolamentare tutte le modalità di partecipazione alle spese comuni della convivenza, gli obblighi di contribuzione reciproca nell'apporto di ciascuno dei partner nelle spese comuni, ma anche i criteri di attribuzione della proprietà dei beni, primi fra tutti la casa. Ecco, ma quali sofferenze, problematiche particolari avete raccolto, per cui avete sentito l'esigenza di questa giornata? L'esigenza prima è quella di prevenire, tipica della funzione notarile, nel senso che i conviventi, capita purtroppo spesso che i conviventi si lascino, e quando si lasciano, oltre ai dolori del cuore, ci sono anche i dolori delle tasche, quindi cercare di predeterminare prima che cosa succede in caso di rottura del rapporto di convivenza è molto importante. E quindi questo voi farete sostanzialmente, sensibilizzate a regolamentare prima i rapporti di convivenza rispetto alle cose sulle quali potete farlo. Esattamente, anche perché capita piuttosto spesso che uno dei due conviventi si trovi in una situazione di debolezza, per così dire, economica. Si pensi al caso di quando insieme le giovani coppie soprattutto comprano una casa, uno dei due ha un gruzzoletto da parte e l'altro non ce l'ha, uno contribuisce di più al pagamento del mutuo dell'altro e poi se il rapporto si rompe che succede? Certo, ecco, pensare bene di regolamentarlo prima in dubbia utilità. Va bene, grazie, grazie, auguri per i vostri lavori. Mario Le Bolle. Succedono cose incredibili nei cieli. Che mi dici, Gus? Lo vedo, contatto 20-30 miglia a sinistra in avvicinamento a 900 nodi. Sugar, hai sentito? Roger. Merlin, lo vedi? Roger, l'ho in contatto rapido. Allora, Top Gun perché? Perché nei cieli del Mar della Cina sta bollendo di tutto in questo caso. Allora, i cinesi hanno allargato il loro spazio aereo difensivo perché c'è la solita cosa di un arcipelago conteso con il Giappone. Sempre quello. Esatto. I giapponesi e i sudcoreani hanno risposto con un sorvolo, diciamo, non autorizzato. I cinesi hanno risposto a loro volta con un altro sorvolo. Obama ha fatto decollare i B-52. Quando c'è troppa roba nell'aria, succede sempre questo. Merlin, lo vedi? Roger, l'ho incontrato. Cribio, ma cosa fate? E giustamente, no, che cosa fate? Perché qua bisogna stare attenti. Però attenzione, attenzione, perché si passa in Parlamento, cioè il governo Letta delle intese ristrette dovrà per forza chiedere un altro voto di fiducia. Quindi non è un passaggio così semplice come sembrava. No, ma era anche logico, dai, certo, è corretto istituzionalmente. Il presidente Napolitano ha chiarito questa cosa. Si moltiplicano le richieste di cambiare rotta per la legge di stabilità. Dopo il Sole 24 Ore l'altro ieri è arrivato anche il Corriere della Sera oggi a dirlo. Noi annotiamo sul nostro taccuino, tutti aspettano l'8 dicembre le primarie del PD. La D di Davide. Vabbè, è la M di Matteo, dai. Ma ci sarà un rimpasto, insomma. Sì, penso di sì, soprattutto dopo le primarie del Partito Democratico. Io non penso che Renzi lasci tutto com'è, insomma. No, è anche abbastanza legittimo tutto, certo, questo, direi. Salamini. Politicamente corretto. Sa. È una bella intervista di Concetto Vecchio oggi su La Repubblica, ma per introdurre l'atmosfera ho necessità di sentire delle note. Trombone. E sono i mitici fiati di Roy Paci nella banda ionica, e questa è appunto Ione, meravigliosa marcia funebre che accompagna le settimane sante di passione. E però per introdurre una nuova categoria della politica, la vedova nera. Oddio. Eh sì, perché... Ma non è un ragno. Siccome c'è stata sta storia, dice che è l'uccisione della democrazia, no? Sì. La morte della democrazia, sì, no? E c'è il funerale. C'è il funerale, no? E quindi ci sono le prefiche. Le prefiche. La vedova nera Pelino viene intervistata da Concetto Vecchio, questo dialogo. Allora, cioè, mi racconti la scelta della sua mise. Ecco, dice lei, fa bene perché il vestito risalta lo stato d'animo di una donna. Non ho esitato un momento, dovevo mettermi in nero. E poi arriva al Senato e mi imbatto nella mia amica Elisabetta Casellati. Le dico anche tu e lei... E chi aveva voglia di mettersi un colore? Non era proprio giornata da rosa, shocking. Ormai, cioè, poi sono arrivate la Bernini, la Rossi, la Bonfisco, la Rizzotti. Lei non crede? Insomma, il nero. Nero. Il nero è questa domina idea di vedovanza. Ancora solo un accenno di nota, e dopodiché i salamini vi salutano. Viabilità. Mix 24. Allora, Moulin Rouge, perché? Perché in Francia si discute di putain, e insomma c'è una nuova legge anti-prostituzione all'orizzonte. Potete immaginare la laicissima Francia, quella anche dei costumi libertini, stanno, c'è tutta una tradizione, molto, stanno discutendo molto. È interessante, insomma, perché Parigi è sempre il centro di alcune rivoluzioni, diciamo, del costume. Segnalo delle bolle, visto che questo è il cosa bolle in pentola, in questo caso le bolle tecnologiche. Nella Silicon Valley è praticamente di nuovo febbre. Segnalo che alla fine del 2000 c'erano 100 miliardi di dollari investiti in aziende high tech, sparirono quasi tutti dopo la prima grandissima bolla. Siamo di nuovo sull'onda di investimenti importanti, sono 8 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, saranno parecchi anche l'anno prossimo, e tutti dicono Dio fai che sia l'ultima, che di sia bolla. L'ultima volta, però bisogna, insomma, cominciare a seguirla. Vedrai, Giovanni, che nel nostro proseguio della trasmissione nei prossimi mesi noi ne vedremo delle belle. Dopodiché sempre stesse. C'è la banda dei clown a Norfolk, questa è molto bella perché è una specie di epidemia. Delle persone travestite da clown, capelli rossi, vestito rosso, stanno terrorizzando la gente. Nessun assalto, nessun crimine particolare, solo terrore. E cioè, una specie di arancia meccanica. Sì, soft, però solo così. Senza solo bastonate. Senza bastonate. Bravo. Non si picchiano. Bravo, non si picchiano. Però è interessante. Se ne molto. Vedete uno dalle vostre parti, significa che l'epidemia è arrivata qua. Si propaga attraverso i social network. E poi? E poi? Il Milan è nato nel 1899 e spero che non finisca mai. Ognuno di noi porta la sua staffetta per un certo numero di anni e si va avanti. Lo zio Fester, il grande Adriano Galliani. Ragazzi, questo è il vero tema per stare con Cucinelli del bar. Cioè, Adriano lascia il Milan, ha dato gli 8 giorni, pare. Ha rotto con Barbara Berlusconi. Si può lavorare così nel Milan? Non lo so, cosa vuoi buttare fuori? È che nessuno più riesce a lavorare con Silvio Berlusconi, perché altro che Galliani, anche Gianni Letta pare che non... Non va bene, non no? Qua la cosa bene. Dei fedelissimi. Comunque, che non vogliono Galliani restare. È un grandissimo del calcio, è un grande manager globale. Tu sai cosa diceva lo zio Fester? Che cosa diceva? Senti. Dimmi quella maledetta combinazione. Va bene. 35 a destra. 35 a destra. Forse 53 a sinistra. 53 a sinistra. Però io trovo che questo modo di aprire le casseforti è molto noioso. Tu pensa a dare i numeri, buffone. Hai capito? Ma... E qua è la famiglia Adams. 800 24 00 24, per chi vuole telefonare, il numero dell'SMS 349 238 6666. Al telefono abbiamo il professor Simonelli per parlare di televisione di qualità. Professore, buongiorno. Dov'era il canone ieri sera? Allora, a parte che mi avete subito preoccupato con questa bolla sul Milan, sapete che per me è un argomento un po' triste, delicato e sensibile in questo momento. Vabbè, cerco di concentrarmi sulla televisione. Allora, ma comunque l'altra sera 3-0. Sì, ecco, ma non basta. Ha lenito il dolore. Ma non era Vidal quello. Sì. No. Sì. Adesso aspettiamo. Ma lei, professore, vuole Galliani o Barbara? Galliani. Ah, va bene. Non ho dubbi. Posso fare il tifoso? Certo, il deve. Barbara ci ha già fatto perdere Tevez, che avete preso voi juventini. Quindi questo non lo dimentico io. Vabbè, ma fa parte dell'apprendistato. Potevamo prendere Tevez e lasciare Patto al Paris Saint Germain. Due bei colpi. E allora la televisione di qualità ieri sera dov'era? Ieri sera il canone è apparso molto tardi, dopo le 11, da Santoro, finalmente, perché dopo la solita discussione tra Formigoni e Santanché, e si dice sempre, insomma, che Berlusconi concentra su di sé tutta l'attenzione e non abbiamo modo di parlare d'altro, Santoro ha parlato della tragedia di 4 anni fa di Viareggio, del treno esploso praticamente dalla stazione di Viareggio. Lo ha fatto a modo suo, in maniera discutibile, come si dice, tribunizia, presentando due vittime, nel senso una mamma che ha perso la figlia e un signore che ha perso tutta la famiglia. Però devo dire che nonostante questa tendenza santoriana che a volte sfiora anche un po' la TV del dolore, la cosa aveva degli elementi di grande serietà, perché queste persone che pure hanno avuto un grande lutto hanno in questo momento... Quindi ieri sera servizio pubblico era servizio pubblico? Dalle 11 e un quarto in poi. Prima devo dire che francamente un dibattito tra la solita politica Santanché e Formigoni proprio non ne sentiamo, non appassionante. Però poi questo ha riscattato tutto, perché devo dire insomma che questi signori hanno posto un problema serio, che è quello della sicurezza ferroviaria e delle responsabilità. Se certo, accertate. Soprattutto adesso che in treno si va sempre di più. Mario, tu il canone ieri sera dove l'hai visto? Io nell'esortazione apostolica di Papa Francesco, mi sto a documentare. Vabbè, sta il preparando un altro dei sì, pezzi. Sì, arriva. E tu Pietrangelo? Beh, io ho visto la puntata di Porta a Porta con ospite Silvio Berlusconi. Era bellissima. Sì, eh? Perché mi guardate così? No, perché io stavo leggendo, non so. Ma non l'avete vista? No. Sono dimenticata. No. Ma una puntata straordinaria. No. Lui in gran forma, lui intendo lui, non lui. L'altro. Lui. Poi... Cioè Vespa in gran forma. In grandissima forma. E Bruno, poi... sì, in grandissima forma. Ma una puntata meravigliosa. Non l'avete vista? No, ho visto Bruno l'altro ieri, stava benissimo, promuove il suo libro alla grande. Quello di Silvio? No, il suo, quello di Vespa. Vespa promuove le cose sue, giustamente. Vabbè, professore, andiamo avanti, che qui scherzano. Allora, spostiamo l'attenzione. Un'altra apparizione di Canon, sempre molto tardi, ieri sera, su Sky Arte. Perché Sky Arte faceva un servizio su una mostra che c'è al Maxi, su Kennedy, ed era ospite la figlia di Robert Kennedy, Carrie Kennedy, e devo dire che in tutta questa celebrazione di Kennedy, della famiglia Kennedy, questo era un punto di vista abbastanza originale, perché partiva da alcune fotografie e che ritraevano ovviamente John, Robert, Martin Luther King, il tema era la famiglia Kennedy e i diritti civili, anzi i combattenti per i diritti civili, e mi è sembrato un modo anche originale, partendo dalla fotografia e non dai filmati, per ricordare questa grande storia, questa grande battaglia di questa famiglia, insomma un modo diverso, laterale rispetto alle altre celebrazioni che abbiamo visto in questi giorni. Quindi è una cosa interessante. Mario, volevi dire qualcosa? Sì, io volevo dire al professore di non preoccuparsi per il Milan, perché noi abbiamo il bagno schiuma nostro preferito, eccolo qua. Arturo, quando il rigore si fa duro, te l'Arturo, gol! Gol! Vidal! La Juve, gol! Senti, Vidal, per favore, non tocchiamolo. No, è bravissimo. Ci ha fatto andare avanti in Champions League... O Catania, come è combinato? O Catania, non lo so, io son fermo a Pedrigno e quelli là, non mi ricordo più. Vabbè, quando c'era il grande Di Marzio. Grazie professore, oggi con la storia di Mix 24 ricordiamo un grande giornalista ucciso brutalmente dalle Brigate Rosse il 29 novembre del 77 a Torino, Carlo Casalegno, a cura naturalmente di Marina Milone. Pubblicità.